Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria in tempi di coronavirus. Avremo oggi, continuiamo a ospitare economisti per capire quale soluzione sia secondo loro la migliore da adottare per la fase 2, la fase della ricostruzione. La fase di adesso è la fase dell'emergenza, e oggi avremo l'ex ministro Giulio Tremonti. Abbiamo avuto nelle settimane scorse tantissimi economisti con proposte diverse, chi più favorevole a un MES con meno condizioni, chi invece ai corona bond, chi ha un prestito in qualche modo irridimibile come avveniva per l'Unità d'Italia e come che era in vigore fino agli anni 60. Insomma, vedremo di capire quali siano le varie possibilità, per evitare però con l'obiettivo finale che deve bisogna evitare che l'Italia, poi finita la tragedia, diventi l'osservato speciale dei mercati. Ecco perché è importante che la garanzia, a mio avviso, sia di carattere europeo. C'è chi però ci ha detto, attenzione, una garanzia di carattere, Daniel Gross ieri, potrebbe creare due tipi di obbligazioni, di botto, di BTP, quelli garantiti dall'Europa di fascia elevata, e per converso abbassare la valutazione su quelli garantiti solo dall'Italia. Però l'importante è poi non diventare preda delle speculazioni. Parlerò anche della Germania, non ho molta voglia di polemizzare oggi con la Germania. Oggi il ministro all'economia tedesco Peter Altmaier ha detto che il PIL tedesco farà meno 5% quest'anno, quindi peggio della crisi del 2008-2009. La Spagna ha annunciato 300.000 disoccupati in più nel solo mese di marzo. La Spagna è in ginocchio, non è una gara, lo dico con... non è una gara, però la Spagna ha dei tassi di incremento che sono spaventosi. È arrivata a 110.000 casi confermati oggi e ha superato i 10.000 morti, in un paese che ha due terzi degli abitanti italiani. Ecco perché continua purtroppo per la Spagna a mantenere il record di mortalità rispetto alla popolazione. E poi adesso la Germania è a 80.000, la Francia deve ancora diffondere i dati, e come sempre alle 18 vi sarà l'appuntamento con la protezione civile. Per quello che riguarda, molti mi chiedono i tassi di mortalità. Beh, il tasso di mortalità dipende anche da quanti casi confermati hai, quanti campioni hai. Da noi resta un po' più alto rispetto ai casi, l'11%, in Spagna al 9%, in Francia al 7%, in Gran Bretagna al 9%, in Olanda al 9%, più basso in Germania, ma lì sapete che io ho dei forti dubbi su come hanno conteggiato soprattutto all'inizio, i decessi, le polmoniti nel mese di gennaio e di febbraio, ma resta un mio dubbio. Per quello che riguarda appunto la Germania, si segnala un'apertura di Ursula von der Leyen, che ha scritto oggi al quotidiano La Repubblica, la Presidente della Commissione Europea: scusateci, l'Europa, anche se non è sempre stato così, oggi finalmente l'Europa si sta mobilitando al fianco dell'Italia, stanzieremo nuove risorse per finanziare la cassa integrazione. Di questo parleremo nella seconda ora del programma, dopo Tremonti, perché il piano si chiama SURE, non so come lo voglia... Sciura, spero di no, perché non voglio far battute su von der Leyen, però 100 miliardi contro la disoccupazione è un fondo europeo contro, l'acronimo sta per Support to Mitigate Unemployment Risks in Emergency, e quindi vuole mitigare i rischi di disoccupazione durante questa emergenza. È un fondo anti-disoccupazione che potrà mobilitare 100 miliardi di crediti, sulla base però di garanzie date agli stati membri per 25 miliardi, e ne parleremo, perché insomma è un pezzetto, non è che esista una risposta sola, è un pezzetto, così come è importante il ruolo della Banca Centrale Europea in questo momento con l'acquisto massiccio di titoli di Stato e anche di commercial papers. così come è importante che la Commissione europea abbia elevato il patto di stabilità, clausole di salvaguardia, la normativa sugli aiuti di Stato. E sono tanti pezzetti, non esiste un unico strumento. Uno di questi però pezzi è sicuramente come evitare un attacco speculativo ai paesi che faranno debito in questi prossimi mesi, e che già lo stanno facendo, e quindi che dopo la crisi di carattere pandemico e anche economico non arrivi una bella crisi di speculazione finanziaria fra qualche mese. Voglio essere molto chiaro su questo. Si segnalano poi altre iniziative in Germania, ne parlerò adesso in apertura. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Come vanno i mercati? Bene, oggi Milano più 1,40, piatta Francoforte è invariata, Parigi più 0,30, Londra più 1,30, Dow Jones più 1,30, euro su dollaro a 1,08. Bene oggi tutto il settore energetico, c'è stato un recupero del petrolio sempre a livelli bassi a $22, però più 9% il prezzo del petrolio, Saipenfeld più 10,50, Eni più 8,60, Snam più 5,90, e poi Atlantia sull'ipotesi di una cessione della quota in mano alla famiglia Benetton più 5,46%, Tenaris più 5,20, Poste più 4, Mediobanca più 3,70 come Leonardo, il 3,30 lo guadagna Pirelli, ma anche il banco BPM, il 3% è il rialzo di Nexi. Il fronte opposto è Estima Electronics meno 2,5, Unicredit meno 2, Amplifon meno 1,70 come Moncler, l'1,30 lo perde Ferrari e Ferragamo, ma anche Fiat Chrysler, l'1% è il calo di Prismian. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook, le altre notizie in breve. Allora, interessante, si fa per dire, quanto sta avvenendo negli Stati Uniti, dove ci sono richieste di disoccupazione che stanno schizzando. Allora, un mese fa le richieste settimanali erano state 210.000 a settimana, tre settimane fa erano salite a 282.000, due settimane fa sono salite a 3.310.000, cioè 10 volte tanto in una settimana, la settimana scorsa 6.600.000, cioè siamo passati in un mese da 210.000 richieste di disoccupazione negli Stati Uniti a 6.648.000 richieste. Se qualcuno mi vuole ancora parlare di un'influenza, la IATA, quindi l'associazione che riunisce le compagnie aeree, ha detto che il crollo del traffico passeggeri a febbraio, ma febbraio confronto da marzo è un mese ancora, è già stato del 14%, il calo peggiore dell'11 settembre, che è il raffronto che abbiamo per il turismo e le compagnie aeree, il turismo e tutta la parte che, insomma, pagherà, secondo me, di più di altri, cioè dove i beni non sono durevoli, dove non si possono rimandare gli acquisti e basta, lì il conto sarà pesante alla fine, anche perché poi nel turismo, ma ne parleremo adesso la prossima settimana in occasione del mancato turismo pasquale, e sul turismo chiaramente ci sono anche comportamenti culturali. Comprare un frigorifero, lo dico chi mi sta scrivendo, io posso aspettare se mantengo il mio stipendio, se non parte la disoccupazione lo compro a settembre o a giugno il frigorifero, ma anche l'automobile, ma anche il televisore e quant'altro, ma anche l'abito. Altra cosa è che io abbia, tanto quello che hai perso su Pasqua non lo recuperi più, né nel mondo del commercio, né nel mondo del, parlo dei consumi a maggior frequenza, la famosa battuta che ho fatto, non è che posso bere 8 caffè al giorno quando riapriranno i bar, ma si inseriscono anche temi di carattere culturale. Chi avrà voglia, lo dico come domanda, di prendere una nave da crociera, di spostarsi in aereo, di andare in luoghi affollati a giugno, anche ammesso che a giugno si sia usciti da questa maledetta quarantena? E lì il problema non è solo di carattere economico, lì è anche di, insomma, cambiamento nelle scelte di consumo. Comunque, dicevo, veniamo all'Italia, il bonus oggi, il famoso bonus da 600 euro, ho visto che Pornhub, ieri era una battuta in ascoltatore, Pornhub ha offerto all'INPS un aiuto su come gestire l'affollamento. In effetti l'INPS ieri ha detto, ma 100 domande al secondo, una cosa mai vista. Abbiamo visto che sostanzialmente Pornhub, i siti porno, gestiscono livelli 10 volte superiori al secondo di domande. Ora, comunque oggi, fatta una figura ieri l'INPS, comunque oggi 1,5 milioni di domande raggiunte per accedere al bonus di 600 euro. Il garante della privacy ha avviato un'istruttoria, l'ipotesi di hackeraggio è tutta da dimostrare, sta indagando la polizia postale, lo ha affermato Guglielmo Loi, che è presidente del Consiglio di Sicurezza e Vigilanza dell'INPS, questa mattina ospite di Simone Spezia e Maria Ratella, appunto a 24 mattino. Ipotesi di hackeraggio che è tutto ancora appunto da verificare, da dimostrare. Ci sono le indagini della Polizia Postale. Dal punto di vista nostro, conoscendo l'attività e vigilando sull'attività dell'istituto, direi che c'è un problema, come si dice, in origine. Un istituto che nel tempo è stato caricato e sovraccaricato di funzioni, insomma il calcolo di queste settimane è che circa 10 milioni di persone si relazioneranno con l'istituto, il che vuol dire che una macchina per andare a 120 ha un motore, oggi deve andare a 160, ma il motore è sempre lo stesso, perché nel frattempo il taglio degli investimenti di tutte le pubbliche amministrazioni è rimasto, il progressivo riduzione della possibilità di investimenti è rimasta, il numero del personale è oggettivamente calato molto negli anni con un piccolo recupero alla fine, insomma sostanzialmente abbiamo una macchina di media cilindrata che deve fare 2000 km in due giorni, è ovvio che il motore rischia di andare in tilt. Qua. Per carità, nessuno sta dicendo che non sia sotto pressione l'INPS, però quello che abbiamo detto ieri, insomma, è da due settimane che sappiamo che dovranno essere erogati 600 euro autonomi e partite IVA e lavoratori occasionali. Ieri il collega del Sole 24 Ore, Davide Colombo, ha fatto notare due cose. La prima, anzi, l'avevo notato anch'io, le Poste italiane si erano organizzate in ordine alfabetico, almeno tu dici, guarda, dalla A alla C e scaglioni per giorni, non ci voleva un genio. B, quello che diceva Colombo, che è uno dei massimi esperti del sistema pensionistico italiano, attenzione, perché per esempio su 5,5 milioni totale della platea che si stima beneficerà dei 600 euro, 3,5 milioni sono partite IVA, le altre sono... Ora, le partite IVA lo Stato le conosce benissimo, le conosce l'INPS perché ci sono i contributi, ma le conosce anche l'Agenzia delle Entrate, quindi almeno potevi iniziare con un'autocertificazione sulle partite IVA, poi l'Agenzia delle Entrate ha tutti gli strumenti per andare a vedere con calma se è vero che io l'attività l'ho chiusa o ho continuato a fatturare o no, mi beccano in un secondo se sono una partita IVA, ma avresti sgravato dai 5,5 milioni, 3,5 milioni di persone che non sono sconosciute, non sono, diciamo, sono conosciutissime. Vabbè, andiamo avanti. Per quello che riguarda, c'è una riunione questa sera alle 19:30 tra il Presidente del Consiglio Conte e il Capogruppo della maggioranza per il decreto sulle misure economiche domani. Potrebbe però slittare il Consiglio dei Ministri per il decreto liquidità alle imprese, quello di cui abbiamo parlato a lungo. Ieri era ospite anche Patuelli, presidente dell'ABI, delle banche italiane, a 24 mattino, e cioè il fatto che lo Stato si faccia garante dei prestiti che le banche daranno alle imprese per il circolante, altrimenti le banche non stanno, per motivi loro di rischio, per motivi contabili, anche se Basilea è stato in parte sospeso, non stanno erogando, perché anche la centrale rischi andrebbe un attimo rivista in questo momento. Però è chiaro che se il prestito bancario è garantito in ultima istanza dallo Stato, diventa un prestito non rischioso, e quindi la banca non ha bisogno di accantonare capitale per erogare questo prestito. La Cassa Depositi e Prestiti adesso è intervenuta con misure straordinarie, rinegozierà tutti i mutui con 7.200 enti territoriali, 135.000 prestiti per un debito residuo di 34 miliardi di euro, e poi 2 miliardi di credito a medie e grandi imprese, indicativo, ovviamente chi ha un fatturato superiore di 50 milioni di euro. Le generali intanto hanno attivato un fondo straordinario internazionale per fronteggiare l'emergenza Covid-19, 100 milioni di finanziamenti complessivi per le piccole e medie imprese. Le aziende inizieranno a rimborsare il capitale ricevuto solo dopo 15 mesi e quindi a partire da settembre 2021. Questo nel giorno in cui Confindustria segnala che c'è un calo devastante della produzione industriale a marzo, meno 16,6%. Non è mai accaduto un calo del genere da quando misuriamo le serie storiche, 1960, porterebbe i livelli in termini reali a quelli di marzo 1978, io ho 10 anni. Per l'economia è lo scenario peggiore possibile. Vicenza, Confindustria Vicenza con il presidente Vescovi lancia l'allarme. Attenzione, il blocco sta chiudendo le imprese, la ripartenza sarà difficilissima per chi riuscirà a ripartire, perché siamo seri con le persone, c'è chi non ripartirà. Dire che nessuno perde il lavoro è un'utopia. Io spero però che vi sia la possibilità di mantenere il maggior numero di occupati al lavoro utilizzando adesso la cassa integrazione e non, ecco, andando per un attimo a dimenticarsi di margini, utili e dividendi. Lo dico in maniera molto chiara, io continuo a pensare che la Francia faccia bene a non dare accesso agli aiuti di Stato alle imprese che distribuiscono dividendi. Non è una colpa, però non mi sembra il momento per distribuire dividendi, oppure se ce li hai non chiedere aiuti. E poi l'appello sul Sole 24 Ore di oggi di 150 accademici su ripensare pensare già da adesso alla ripartenza su un modello chiamato così Corea del Sud, un metodo costruito su dati trasparenti, tracciamento dei contagi, indagini demoscopiche sui campioni della popolazione, e poi che per permettere una rapida ripresa delle attività economiche senza cui la sopravvivenza del reddito del lavoro è a rischio. Uno dei firmatari, il presidente emerito della Fondazione Politecnico di Milano, Gian Pio Bracchi, al microfono del nostro Alessio Maurizi durante Effetto Giorno. Un paese che ogni anno ha un PIL di oltre 1,6 trilioni di euro, ogni settimana di fermo delle attività sia produttiva che commerciale che di servizi provoca un danno facilmente valutabile. Siamo vicini all'1% del PIL ogni settimana, siamo oltre una decina di miliardi alla settimana. Ma non ci deve preoccupare solo questo, ci deve preoccupare il fatto che il sistema sia poi in grado di ripartire quando ce ne saranno le condizioni. C'è bisogno quindi di una graduale riapertura e nel frattempo occorre che le misure economiche che sono state annunciate diventano realtà. La Corea la si prende ad esempio sia perché ha avuto successo nel ripartire senza chiudere troppo lungo, ma dall'altro lato perché è un paese che non è molto diverso dall'Italia per struttura, diciamo, demografia, per aspetti relativi all'ordinamento politico e sociale, sì, per struttura industriale. E nella Corea ciò che è stato importante è stata la capacità di usare interventi massicci e tecnologie per tenere sotto controllo la situazione, tamponi a tutti, misure degli anticorpi e anche delle tecnologie, in particolare queste app di cui tanto si parla, per riuscire a tracciare le persone che sono in corso nelle infezioni e anche per tracciare con banche dati coloro con cui sono venuti a contatto. Allora, tra poco ascolteremo anche la proposta del ministro Tremonti. Qualcuno mi chiede la Germania. Allora, segnaliamo due cose sulla Germania. Non parlo della von der Leyen, ne parleremo dopo, ma lì è Commissione Europea. Da un lato c'è la Bild, che è il tabloid più diffuso in Germania. Su una pagina scrive Wir sind bei euch, pensiamo con voi. I colori delle due bandiere, quella italiana e quella tedesca. e noi soffriamo con voi perché siamo fratelli, piangiamo con voi i vostri morti e ci avete aiutato. Ci sono delle cose, adesso io non voglio polemizzare ogni giorno con la Germania, ci sono delle cose oggettivamente così che fanno, posso dire, tenerezza. Cioè i tedeschi si dimenticano che noi esportiamo quasi 60 miliardi di euro di beni e servizi in Germania, ne importiamo altrettanti e esportiamo macchinari e attrezzature in Germania per 8 miliardi, prodotti metallurgici per 5 miliardi e mezzo, prodotti chimici per 4 miliardi e mezzo e importiamo 10 miliardi in più, cioè 69 miliardi da loro. Ma si dimenticano anche che, per esempio, calcolata male, ma un'automobile tedesca ha più o meno il 20% di componentistica italiana. Perché lo dico? Perché nell'apprezzare la copertina della Bild dentro ci sono insieme di stereotipi da pizza, mandolino. Ci avete aiutato a far ripartire la nostra economia, e questo è vero. Ci avete portato cose buone da mangiare. All'improvviso c'erano anche da noi antipasti, farfalle, tiramisù. Non solo più patate, crauti e polpettone. E poi lo scrive, sente, vi venivamo a trovare col Maggiolino in Riviera, Rimini, Capri, Venezia, in Toscana, cercavamo il mare azzurro, il profumo dei limoni, canticchiando Umberto Tozzi e Paolo Conte. Ci vuole un po' di tenerezza, è chiaro che è un'immagine molto da anni 50 e 60. Volevamo sempre essere un po' come voi, con la vostra rilassatezza, la vostra bellezza, la vostra passione. È una dichiarazione di amore tra Goethe e cos'altro, non lo so, ma insomma. Volevamo saper cucinare la pasta come voi, bere Campari soda come voi, amare come voi. La dolce vita, vi abbiamo sempre invidiato per questo, ora vi vediamo lottare, vi vediamo soffrire, anche da noi la situazione non è facile, da voi è peggio. Infermiere sfinite, siete sempre nei nostri pensieri. La forza dell'Italia è donare l'amore agli altri, questo vi aiuterà a uscire da questa crisi. Ci rivedremo presto a bere un caffè, un bicchiere di vino rosso in vacanza oppure in pizzeria. E va bene, perché si sta muovendo qualcosa nell'opinione pubblica tedesca e anche in parte olandese. Guardate la posizione dei Verdi che appoggiano la Merkel e anche di vari esponenti olandesi. Poi però mi chiedo invece chi governi la Commerzbank. Ieri ha mandato una lettera agli investitori più importanti invitandoli a ridurre l'acquisto e il possesso di BTP italiani, dicendo che quelli diventeranno a breve junk, spazzatura. Io vorrei sapere che informazioni ha Commerzbank, banca molto affidabile. È molto affidabile Commerzbank, perché prima che entrasse in vigore il bail-in è stata salvata dallo Stato tedesco con 18 miliardi di euro, è la seconda banca in Germania, anche perché era appesantita a sua volta dal salvataggio di Dresdner Bank, terza banca che era sul collasso. La banca ha restituito 14 miliardi, dentro la banca comunque lo Stato tedesco ha ancora il 14%, intervento attuato prima che entrasse in vigore il bail-in. Vabbè. Professor Giulio Tremonti, già ministro dell'economia di questo paese, autore di libri che io ho letto con estremo interesse. Il primo era Rischi fatali nel 2005. Dico, le date sono importanti. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, professore, dopo il meteo le chiederò invece di spiegarci la sua proposta di un piano di difesa e ricostruzione nazionale. Però, venendo appunto da così l'amore e la diffidenza tedesca, vorrei un suo commento in primo luogo, perché lei ha vissuto sulla sua pelle di ministro anche i rapporti con Germania e Francia, lì c'era Angela Merkel e Sarkozy al suo tempo. La reazione, diciamo, della Mitteleuropa, Germania, Olanda e satelliti annessi, l'ha sorpreso o è esattamente quello che si immaginava? Ma senta, un po' conosco i palazzi di Bruxelles, quindi anche chi li frequenta da tanti anni, dal 2001 in poi. E ricordo nel 2003 il prodotto tedesco era in discesa, il debito era in salita, l'Italia andava molto meglio in quel periodo. Bene. E devo dire anche il governo italiano aveva la sua forza. Durante la presidenza italiana, secondo semestre 2003, la Commissione europea Prodi, la Banca Centrale Europea, Trichet, tutto l'establishment europeo, diciamo i vertici più o meno amministrativi, burocratici, culturali, intellettuali, propongono le sanzioni contro la Germania. La presidenza italiana le esclude in base a un argomento tecnico, e cioè dire le sanzioni in base ai trattati le dai a un paese che intenzionalmente devia, non le dai a un paese che, data un'economia avversa, non riesce a fare i parametri di Bruxelles. E così era in quell'anno per la Germania. E continua la procedura di deficit eccessivo che era già in atto, ma non le sanzioni. Non c'era una base giuridica, nonostante fosse chiesto dalla Commissione Prodi, non c'era comunque una logica politica. Dare le sanzioni alla Germania nella storia non porta fortuna. Nell'insieme la presidenza italiana propone e viene votato che continua la procedura, ma non si danno le sanzioni. Quella fu una scelta, credo, positiva per la Germania. Inizia su quelle basi il loro grande piano di riforma. Era Schröder, se non ricordo male. Questo pone le basi per la successiva crescita. All'opposto, se si fosse fatto il piano di sanzioni sulla Germania, probabilmente la reazione della Germania contro l'Europa sarebbe stata molto violenta. Ora, quella scelta fu una scelta europea? Sì, fu una scelta per il bene comune? Credo di sì. Non era un favore alla Germania, era un favore all'Europa. Per inciso, gli stessi che volevano le sanzioni poi dissero che il patto era stupido, e questo fa parte del folklore politico. Ma torno a dire, forse la Germania dovrebbe capire che in Europa si sta anche, in base a una logica, non solo forsennatamente economica, ma anche in base a una logica politica. Quello che è stato in passato può ripetersi anche contro di te. Io anche credo, tra l'altro, che la Germania, con qualche problema che ha sull'idea che ci abbiamo in giro dell'automobile, con un sistema economico molto orientato verso la Cina, per tante ragioni non è detto che la Germania non torni come era nel 2003, cioè peggio di noi. Quindi, professor Tremonti, le dice attenzione, perché nel passato, io ricordo bene quel periodo, furono proposte le sanzioni per aver violato il patto di stabilità, governo Schröder, vado a memoria, potrei sbagliarmi, e però l'Italia disse no, andiamo avanti con l'infrazione ma non le sanzioni. Poi fecero un piano importantissimo di investimenti e tornarono a crescere. Lei dice attenzione alla Germania, intanto perché noi stessi non ragioniamo in chiave solo ragionieristica, e ricordatevelo, in secondo luogo perché non è detto che poi la storia è fatta anche, diciamo così, una ruota può girare, non è detto che la Germania non possa trovarsi in un futuro ad avere lei stessa bisogno di un aiuto, visto il modello della sua impresa. Quindi lei non è pentito a suo tempo di non avere insistito per le sanzioni alla Germania? Assolutamente no. Tenga conto, purtroppo, conoscendo un po' la storia, nel Novecento si diceva la Germania ha grandissime virtù e pochissimi difetti, ma a tratti pone tutte le sue grandissime virtù al servizio dei suoi pochissimi difetti. Se io dovessi, e magari domani o dopodomani provo a scriverlo su Sole 24 Ore, ci sono due punti che potrebbero essere non contro la Germania, ma a favore dell'Italia. Primo, l'economia pubblica tedesca è molto basata su un modello che ruota intorno alla agenzia, alla struttura pubblica detta KfW. Sì. Viene dal piano Marshall, prosegue, viene blindata nel trattato di Maastricht e permette alla Germania di fare una politica economica svincolata dal trattato europeo, non soggetta ai parametri che tanto bene noi conosciamo. E su quella base si aggiunge gli aiuti di Stato, che adesso sono sostanzialmente eliminati. Già nel 2008, nel pieno della crisi, l'uso della KfW e degli aiuti di Stato, credo ebbero 80 aiuti di Stato in deroga rispetto ai principi, diede una grande svolta alla Germania in quel periodo. Dovremmo fare anche noi. Io penso la nostra Cassa Depositi e Prestiti deve avere lo stesso regime che ha la KfW, non i limiti. Già fu difficile trasformarla in SPA, ma adesso francamente mi sembra giusto. Ecco, e veniamo alle proposte concrete, poi ho il metodo e poi vorrei sentire quella sul debito. Quindi lei dice la nostra Cassa Depositi e Prestiti, ma non ho capito, dovrebbe fare un po' come la vecchia IRI o intervenire in situazioni di difficoltà? Basta copiare lo statuto tedesco, più o meno ci siamo, e soprattutto liberare la nostra dai vincoli del Trattato europeo, come è stata per decenni liberata quella tedesca. Oltretutto adesso il patto ormai non c'è più, quindi basterebbe agire. Basta copiare. L'azione tedesca è ortodossa per definizione, quindi fare come loro non è mica fare un peccato. No. Poi se posso dire, ma è importante, loro emettono titoli di debito pubblico usando una tecnica particolare che li sottrae ai rischi di mercato. Noi non l'abbiamo ancora, copiamo quella tecnica, usiamo anche noi la tecnica tedesca, anche questa è perfettamente legittima, europea, la fanno loro, quindi anche noi, par condicio. Allora, no, interessante questo e spero che poi riesca a articolarlo anche sul Sole 24 Ore. Dopo il meteo invece vorrei capire la sua proposta, perché qui stiamo tutti ragionando a fase 1, quella emergenziale, fase 2, chiamatelo piano Marshall, c'è chi lo vuole corona bonds, c'è chi dice no, meglio un MES, un fondo salva stati alleggerito sulle clausole. E, se ho ben capito, professor Tremonti, lei sostiene, no, guardate, alla fine di tutto... meglio fare lanciare un prestito nazionale, lo dico male, poi lo spiegherà meglio, sottoscritto prevalentemente dagli italiani, ma poi anche aperto agli esteri, con delle garanzie stringenti e totali che non verrà modificata la tassazione e il rendimento negli anni futuri, e sostanzialmente con una durata che a me ricorda, se ho ben capito il suo progetto, quasi un po' i prestiti redimibili di cui l'Italia era e aveva fino agli anni 60 anche come retaggio dell'Unità d'Italia. Vorrei capire tanto la proposta nel concreto e poi perché questo non ci espone a un rischio di debito comunque troppo alto. Le chiedo 2 minuti di pazienza, ho il meteo e la pubblicità, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Minuti. Allora, professor Tremonti, vedo alcuni ascoltatori. Ragazzi, noi invitiamo tutti, uno può piacere o non piacere, ma stiamo parlando con tutti gli economisti e comunque la radio è bella perché se uno non piace l'intervista può cambiare canale. Professor Tremonti, che cosa vuol dire un patto con gli italiani per la difesa e ricostruzione nazionale? Un'emissione di debito, diciamo, che dovrebbero sottoscrivere soprattutto gli italiani, e come funzionerebbe secondo lei? Mi sta sentendo? Sì. Allora, se l'intervista non piace, io non voglio creare difficoltà. No, ma abbiamo sempre ascoltatori. La ringrazio molto per l'attenzione. Abbiamo molti ascoltatori polemici, non con me, non con lei, non si preoccupi, la polemica è sempre con me. Ma diciamo, lei dice meglio a questo punto un prestito lungo nel tempo e con rendimenti garantiti che il ricorso al MES, oppure diciamo non sono in alternativa le due cose? Ma guardi... questo tra l'altro è un periodo in cui tutti parlano e credo con un'esperienza molto maggiore della mia, quindi semplificherò molto. C'è il debito pubblico, c'è la possibilità di piazzare nella Banca Centrale Europea titoli sul debito pubblico e poi ci sono altri strumenti che sono in elaborazione in queste ore, in questi giorni in Europa. Partiamo da questi. Tutti assolutamente benvenuti, dipende poi da quanti soldi ci sono dentro, che tempi di funzionamento hanno, va tutto assolutamente bene. Credo che non sia sufficiente, che possa avere un valore, come dire, questa attività simbolico di non rottura dell'Italia con l'Europa. L'Europa, ma credo che sia abbastanza addizionale e alla fine anche marginale questo. Poi c'è a monte il debito pubblico. Io non credo che il discorso che faccio non è fare più debito pubblico, fai tu le scelte. Io noto adesso che molti che fino a qualche minuto fa erano austeristi adesso sono diventati debitisti. Io dico, quanto è il debito da fare? È una scelta, ma come emettere quel debito? Questo è il punto essenziale. confermo che sopra c'è la BCE e la possibilità di mettere i titoli anche in BCE, però il problema è che il grosso lo devi comunque piazzare tu, e probabilmente la quantità di debito che va fatta, e quindi i titoli che devono essere emessi, è crescente. E quindi si pone un problema di come gestire il debito, come prima, come se nulla fosse, o in un altro modo. Io credo che possa essere prudente, oltre a emettere i titoli, come ho detto, alla tedesca, comunque prudente fare emissioni un po' diverse da quelle che sono state fatte in questi anni più o meno fortunati. Fare emissioni che ricordano i grandi momenti della storia italiana. Dall'unità in poi. Primo, esenti da ogni imposta presente e futura per dare un messaggio di fiducia, fu formula introdotta dopo l'unità nazionale, che stava cedendo per colpa, per effetto del debito pubblico eccessivo, dall'estero stavano ponendo in discussione l'unità dell'Italia, fu fatta la formula esenti da ogni imposta presente e futura, non solo sui redditi ma anche sui titoli in sé, del tipo non pagavano la tassa di successione. Quindi avevano un loro regime speciale rispetto agli altri titoli. Dura da 150 anni, questa formula finisce nel 1986. Goria. Secondo me va assolutamente reintrodotta per dare un messaggio di fiducia, di sicurezza. Poi come mettere i titoli? Credo che possa essere tutto discusso. Le scadenze, le durate, le tecniche di emissione devono essere in un qualche modo discusse, ma il fondamentale dovrebbe, secondo me, essere quello della fiducia. In un momento come questo, raccogliere capitale da gente che si fida di chi emette è molto importante, e chi emette deve dare fiducia con esenti da ogni imposta presente e futura. Poi che i titoli siano io credo che sia devastante quello che si sente ormai discutere, la imposta patrimoniale. Un minuto dopo saltano le banche e le assicurazioni, quindi salta il risparmio dei cittadini. Il risparmio. E credo che sia ugualmente devastante l'idea delle operazioni coercitive, cioè obbligatorie. Il prelevo notturno, quello famoso di Amato. Quella fu un'imposta. Conti correnti. Però, un'idea di patrimoniale o un'idea di prestito forzoso, ecco, io le escluderei, perché è più il male che ti fai che non del bene che pensi di quindi fare. Quindi, se ho ben capito, la sua proposta è dire, al di là della durata, che immagino potrà essere lunga, perché un debito del genere ha un senso se lo fai, non dico irredimibile, ma almeno 50 anni, non lo so. Però, non lo so, perché se le cose vanno bene può essere anche più breve. Successive emissioni, e comunque è fondamentale che a fronte della raccolta di debito anche dall'estero e anche di ritorno dei capitali che sono all'estero, ci sia poi un paese che investe, non un paese che blocca le imprese. Certo. La prima cosa da fare è il codice appalti, è lungo 1 chilometro e 306 metri più i regolamenti. Vi dico una cosa che blocca questo paese. Oggi il cosiddetto decreto Cura Italia, va bene? È lungo 127 articoli, è in Parlamento con dentro più di 1000 emendamenti. La cosa devastante è che quegli emendamenti non sono solo dell'opposizione, sono della maggioranza, e siamo in attesa del mega emendamento del governo. Ma lei pensa che sia un modo serio di gestire una crisi, temo, drammatica come questa, con un sistema di ministero, di partiti, di politica, che fa 127 articoli e su questi 1000 emendamenti? Io trovo che sia questo il punto. Sì, allora c'è una lentezza rispetto anche alla Germania. Cioè, certo. Cosa? No, visto che criticavo la Germania, mi ha scritto oggi un ascoltatore che lavora in Germania, ha ottenuto in 4 giorni il prestito da 4.000 euro che aveva chiesto. Adesso non so le modalità, e questo fa una specie non solo con l'INPS, quello che è successo ieri, ma anche appunto su le lungaggini. Tornando alla sua ipotesi, esente da ogni imposta futura, perché è questo il patto fiduciario che lo Stato ha con i cittadini e comunque con gli investitori. Un'ultima domanda, visto che io citavo il suo libro del 2005, Rischi fatali, in cui onestamente lei paventava dei rischi su questa globalizzazione, in passo non lo ricordo tutto a memoria, ma insomma, ante litteram, perché a quel tempo la globalizzazione era ancora una cosa vista per lo più in positivo. La domanda è molto facile. Questa epidemia, pandemia di coronavirus, rappresenta la fine della globalizzazione oppure è una mazzata incredibile che è arrivata su un processo che già si stava sfaldando, e penso alle tensioni sociali in questi anni, a partiti anti in qualche modo globalizzazione per la difesa di interessi nazionali, penso anche alle tensioni all'interno dell'Europa sulla gestione dell'euro, alla Brexit, a Trump. Ma senta, se posso, questo nel 1995, quando parte con il WTO del 94, certo, quando parte la globalizzazione, io ho cominciato a scrivere un libro diverso da quelli di tendenza generale, era intitolato Il fantasma della povertà. Poi nel 2005 è venuto Rischi fatali, poi La paura e la speranza, la crisi e quant'altro. Mettiamola giù così. Questa pandemia prima o poi è superata, sarà superata, la scienza ha battuto le infezioni con la penicillina, batterà questa malattia con il vaccino, altri vaccini hanno battuto malattie terribili. Il problema è che, il punto vero è che questa pandemia indica la crisi, non causa, ma indica la crisi, è uno dei segni sintomatici, la crisi del mondo globale. Il primo colpo sul meccano globale era stato con la crisi del 2008 e questo è il secondo colpo. Credo che il mondo sarà diverso, sarà meno globale, sarà più deglobalizzato, sarà meno pacifico come per artificio si è pensato che dovesse e potesse essere, sarà credo un mondo diverso. Per inciso, lei è sicuro che siano giuste le statistiche che si leggono sulla Cina? So, il PIL, no, il PIL meno 4, più 4, eccetera. Le do un altro numero, 1929. Oh, una botta d'allegria, professor Tremonti, 1929. Ma pensa che i suoi lettori saranno, invece i suoi ascoltatori saranno entusiasti e diranno che non è botta di allegria, è realismo. Io temo che questa crisi non sia un, come dire, un passaggio superabile. La pandemia sì, ma una svolta della storia è abbastanza probabile. Io credo che l'Italia abbia enormi possibilità, io spero, di uscirne in positiva, perché abbiamo le nostre imprese, abbiamo un mondo di cultura, di società molto più ricco e diverso di tanti altri. Però credo che debba essere messo in conto, cosa vuole? Ho scritto Il fantasma della povertà nel 95, quando tutti quelli che adesso... La cosa impressionante è che tutti quelli che la crisi l'hanno o causata o non prevista, adesso ci danno anche i consigli. Se c'è una crisi vai da un esperto, quello che ha causato la crisi è un esperto di crisi. Io credo che magari, come dire, una maggiore attenzione rispetto alle figure che circolano va in qualche modo riservata. Io ho più fiducia nella gente, nei lavoratori, nella società che ci circonda. Per esempio, se dipendesse da me, tanti anni fa inventai 5 per 1000, farei 10 per 1000 per la ricerca e il volontariato, non più soldi ma i cittadini che lo destinano nel modo migliore. Credo che più lo scenario è complicato, più il rapporto in Italia deve essere, come dire, elevato. Cioè, io credo che sia una fase nella quale contano più dei valori di borsa. Tra l'altro, per inciso, lei ha visto come vanno le borse, non credono più neanche al mammut milionario. Ho due minuti, vorrei capire una cosa su questo, poi avremo altro modo per parlarne quando saremo alla fase 2, la fase di che modello economico pensare, anche fase 3. Però quando lei dice, insomma, che questa è un'altra botta sulla, e l'Italia ha delle buone possibilità, lei ritiene, in una battuta, che vi siano più opportunità o più rischi da un accorciamento della filiera del valore? Voglio dire, Ieri ho attaccato la Cina perché la Cina sta diffondendo dei dati palesemente falsi e non si dimostra essere un paese affidabile, non è una democrazia a caso. Però in due minuti, professor Tremonti, questo vuol dire che se accorcio le filiere, allora avrò meno delocalizzazione in Cina. Filiere un po' più corte, per noi è un vantaggio o è uno svantaggio, visto che siamo anche dei grandi esportatori? Senta, tanti anni fa ho detto che eliminare di colpo i dazi era una stupidata, che andavano ridotti gradualmente per difendere le nostre imprese e i nostri lavoratori. L'elite economica politica disse che era un errore. Credo che sia stato un errore. Non puoi bloccare il mondo, ma non puoi neanche forzarlo di colpo. Quella è stata una stupidata. Tempi più lunghi e più saggi avrebbero equilibrato meglio la produzione. E credo che si possa tornare a quello. Non è che deve chiudere il mondo, però neanche immaginare che fuori tutto quello che fuori è possibile, è positivo, e quello che in Italia manco lavori e meglio non farlo. Ci sono anche delle responsabilità. Sì, sì. No, ma su questo ho ben presente chi ha esaltato solo le catene lunghe. La Germania è stato, adesso chiudo su dove, così direte che sono ossessionato la Germania, ma la Germania è stata in Europa il principale paese a, diciamo, cavalcare questa globalizzazione fatta di filiere lunghe, fatta di presenza sui mercati, fatta di un interscambio commerciale enorme con la Cina e non solo, anche con l'India. Interessante, ma non abbiamo tempo, invece, la sua valutazione sul... Attenzione ai tedeschi, la battuta l'ho capita, perché non è detto che, visto il modello produttivo tedesco, visto quello che sta capitando, visto che oggi c'è un ministro dell'economia in Germania che sostiene che faranno meno 5%, non è detto che il modello tedesco, basato su un rapporto quasi esclusivo con la Cina, o comunque fortissimo, e tutto incentrato sull'automotive, ecco, possa continuare a girare con la stessa forza con cui ha girato negli anni scorsi. Formulo il migliore auguro perché faccia del meno 5. Ah. Che si fermino nella caduta al meno 5. Mi sembra ottimista. Grazie, Dankeschön anche al professor Giulio Tremonti. Andiamo sul GR24 e poi l'appuntamento con la protezione civile, poi ci spostiamo a Bruxelles per capire che cos'è il piano von der Leyen di aiuto agli strumenti per proteggere l'occupazione, piano Sure, come l'ha chiamato la von der Leyen. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Aiutiamo. Il Sole 24 Ore, insieme a Radio 24 e Radio Cor, sostiene le strutture ospedaliere sul territorio impegnate nell'affrontare l'emergenza coronavirus. L'ospedale di Cremona ha bisogno di te e per noi è la notizia più importante di oggi. L'azienda sociosanitaria territoriale di Cremona, con i suoi medici e tutto il suo personale, sta lavorando senza sosta per fronteggiare il Covid-19. Aiuta anche tu con una donazione straordinaria per affrontare tempestivamente questa emergenza. Hashtag insieme ce la faremo. Hashtag sole per ospedale Cremona. Per tutte le info s24ore.it/aiutiamo. Focus Economia. E 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, la borsa ha chiuso non male a Milano, anzi più 1,75%, più 0,30 a Parigi, più 0,30 a Francoforte, Londra più 0,50, Dow Jones più 1,80%. Confermo che i migliori sono i titoli petroliferi, perché c'è stato un recupero di circa 20% del petrolio, che viaggia sempre su livelli bassi intorno ai 23, adesso avevo il dato di circa un'ora fa, era $23-24, e vanno bene, il recupero è intorno al 9% del petrolio. Saipem più 8,87, Eni più 6,90, Atlantia più 5,90%, ancora Poste più 5,14, Tenaris più 4,60, Nexi più 4%, Leonardo più 3,80, Pirelli più 3,5, Mediobanca pure, Fineco più 3,20, A2A più 3 come Italgas. Fronte opposto invece e stima Electronics meno 2,30, Moncler meno 1,20, come Unicredit l'1% lo perde Ferrari. Dunque, molti mi stanno scrivendo sull'andamento degli altri paesi, l'ho già dato, c'è una situazione molto difficile in Spagna, 950 decessi in più oggi rispetto a ieri, e che porta totale ai medi decessi in Spagna a superare oggi i 10.000, con 110.000 casi confermati. Il problema della Spagna e della Francia in questo momento è legato soprattutto al fatto che il virus, che l'epidemia sta colpendo fortemente Parigi e l'Île-de-France e Spagna e la zona di Madrid, cioè, ora qui voglio fare qualunque gesto scaramantico possibile, l'Italia in una situazione difficilissima ha per ora visto una tenuta totale di Roma e Milano avere una percentuale di dati per fortuna molto inferiore a Bergamo e Brescia. Invece in Francia e Spagna, da quello che vediamo, il problema è che la stragrande maggioranza dei casi si concentrano proprio nelle capitali o nell'area periferica. Comunque c'è Borrelli con il punto della protezione civile. 60 nuovi deceduti. Il totale dei guariti è complessivamente di 18.278. Rispetto a ieri le persone guarite sono 1.431 in più. Per quanto riguarda l'attività della centrale remota di soccorso sanitario, ad oggi risultano trasferite 105 pazienti dalla Lombardia, due in più rispetto a ieri. Di questi 65 sono pazienti positivi al coronavirus, 40 pazienti negativi. Di questi trasferiti fuori regione, 32 sono stati trasferiti in Germania. Per quanto riguarda le forze in campo, voglio ricordare che sono circa 16.500, per l'esattezza 16.506 sono i volontari impiegati, sia i volontari delle associazioni nazionali di volontariato che delle associazioni locali impiegate per questa emergenza, a cui si aggiungono il personale delle forze di polizia, delle forze dell'ordine, il personale sanitario. Le tende di pre-triage al di fuori degli ospedali sono 790 e 151 sono ancora le tende di pre-triage negli istituti penitenziari. Per quanto riguarda le donazioni raccolte dal Dipartimento della Protezione Civile, sul conto dedicato ad oggi abbiamo raccolto 101 milioni e 246 mila euro, e di questo voglio veramente sottolineare questa cifra importante che abbiamo raggiunto grazie alla generosità di donatori grandi e piccoli. Abbiamo avuto grandi donazioni che ringraziamo, ma abbiamo avuto anche piccole donazioni, tante piccole donazioni che altrettanto. Allora, riprendo la linea. Il dato di oggi vede un leggero aumento dei, ahimè, dei deceduti, perché sono 760 in più rispetto a ieri. Ieri erano stati 727, il giorno prima 837 e 812 lunedì. Vede invece un calo nei nuovi positivi, ieri erano stati 2.937, oggi 2.477, che fa un aumento dei positivi del 3%, ieri era stato del 4%, il giorno prima del 3%, il giorno prima del 2%, il giorno prima del 5%, vado indietro di una settimana fino a sabato 28% più 5%, venerdì 27% più 7%, giovedì 26% più 8%, quindi sembra confermato un calo nell'incremento dei positivi, ormai è da 4 giorni, cioè da lunedì, che il calo va dal 2 al 3 al 4 al 3% di oggi. Invece sui decessi, purtroppo lo dico, la cifra di 700 era 800 ieri, 800 anche lunedì, però poi era 750 domenica, 800... Sui decessi il calo, sì, c'è un appiattimento della curva, ma sicuramente meno evidente di quello dei contagiati. I decessi infatti continuano a essere più 4%, come fecero ieri, e come hanno fatto più 3% invece martedì rispetto a a lunedì, quindi l'incremento dei decessi è stabile al 4%, l'incremento dei contagiati è in, più o meno in calo, comunque più 3%. Sono dati, do anche l'assoluto, 2.477 più di ieri e per quello che riguarda appunto i contagiati. Faccio notare, non c'è nessun malcomune mezzo gaudio, la cifra invece su cui si muovono Francia e Spagna in questo momento, che è più che doppia rispetto a contagiati, rispetto a quelli italiani. Purtroppo per la Spagna anche il numero di decessi è stato molto più alto di quello italiano. Ancora, per quello che riguarda la Lombardia, che sappiamo essere l'epicentro, il vicepresidente della Lombardia Fabrizio Sala ha fatto notare oggi che ci sono 165 ricoverati in meno di ieri che ci sono stati 1.292 casi in più di ieri, ma i ricoverati in terapia intensiva sono stati solo 9 più di ieri, mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono in calo, sono 165 meno di ieri, che è molto importante per liberare anche gli spazi. Tant'è che Sala dice: stiamo cominciando a Sala, inteso come vicepresidente della Regione Lombardia, stiamo cominciando a uscire dalla più grave emergenza, anche se dovremo convivere con l'epidemia per parecchio tempo. Quindi c'è un barlume, una speranza, insomma, lo dice lo stesso vicepresidente, che si sta cominciando a uscire. E l'appiattimento, ripeto, sui contagiati e anche sui decessi mi sembra vada in questa direzione. I guariti, volete sapere, sono l'avevo visto prima e adesso cerco di trovare anche il numero di guariti, eccolo qua, 1.431 guariti più di ieri, quindi il doppio rispetto ai decessi. C'è una notizia importante invece che arriva, allora c'è la bozza non definitiva che dovrebbe essere discussa nel prossimo Consiglio dei Ministri, vediamo se domani o se verrà spostato. È quello che deve analizzare in primo luogo le garanzie che lo Stato darà alle banche sui prestiti da concedere alle imprese. Però si discuterà anche della maturità, e qui è un tema delicatissimo per migliaia di studenti. Allora, qualora non si riesca a tornare a scuola entro il 18 maggio, questo prevede la bozza ancora non definitiva, la maturità verrebbe svolta con un unico colloquio, stabilendo nei contenuti, modalità, punteggio, specifiche previsioni per i candidati esterne. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento costituirebbero parte del colloquio. Questa è la bozza qualora non si riuscisse a rientrare il 18 maggio. Io spero invece che per il 18 maggio si riesca a rientrare a scuola. Comunque, allora 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito Radio 24. Vediamo invece che cosa ha deciso l'Europa, intesa come Commissione Europea, sul piano SURE, cioè quello che dovrebbe dare soldi ai vari paesi per fronteggiare il rischio di disoccupazione. In Spagna c'è un numero più ampio di guarigioni, guardi, in Spagna in questo momento c'è un numero molto più alto di decessi, 959 oggi, 200 in più rispetto all'Italia, e di contagiati. Adesso il dato di contagiati totali vado a rivederlo, ma viaggiava secondo me oggi a più del doppio di quelli italiani. Allora, per quello che riguarda il piano SURE, che cosa vuol dire? Vuol dire, nell'acronimo, per Support to Mitigate Unemployment Risks in Emergency, quindi un aiuto per mitigare i rischi di disoccupazione vista questa emergenza. 25 miliardi che potrebbero mobilitarne 100 di miliardi. Ne parliamo dopo il traffico, appunto, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Focus Economia. Oh, guardate, adesso ho il dato anche spagnolo. La Spagna oggi ha avuto 8.100 contagiati in più in un giorno, noi 2.400. E ha avuto 960 morti in più in un giorno, noi 720. Ora non è la gara delle disgrazie. Lo dico perché è importante capire anche a livello europeo che il danno non solo economico, perché sono tutti chiusi, Francia, Spagna, Italia fino a meno 18 aprile, ma anche il danno di carattere umano e quindi nelle vittime, nel contagio e nella pressione sugli ospedali è fortissimo, non certo perché uno possa godere della situazione spagnola. Allora, dicevo, e anche perché la risposta europea non è una risposta per l'Italia, ricordavo la copertina del settimanale tedesco, ma è una risposta che serve a tutte le economie del sud. Poi vedremo se ha ragione il professor Tremonti quando dice stia attenta anche la Germania, l'ha detto prima, perché tra rallentamento cinese e crisi dell'automotive bisogna stare attenti, che potrebbe capitare a tutti, e già la Germania prevede un meno 5% di PIL quest'anno, che non è esattamente uno scherzo, nonostante abbia anche di che spendere. Ma dico, se la situazione è così pesante e se, diciamo, le economie principali dell'area euro sono in queste condizioni anche di carattere sanitario, è ovvio che il tema non è più l'Italia chiede aiuto, ma è il piano il più possibile armonico a livello europeo per aiutare buona parte dell'area euro, anche perché non si illudono l'Olanda o la Finlandia di poter esportare o fare acquisti se viene giù l'area economica, geoeconomica, che si chiama Spagna, Francia e Italia, in parte anche la Germania. Antonio Poglio Salimbeni, buonasera. Buonasera a voi. In collegamento con noi da Bruxelles. Adesso arriviamo al piano della von der Leyen. Dimmi solo una cosa, hai la sensazione che in realtà, al di là delle copertine, delle dichiarazioni e della presa di posizione anche politica, penso ai Verdi in Germania che hanno detto hanno ragione gli italiani, che si stia allentando il fronte, diciamo, del rigore tedesco-olandese? Beh, l'evoluzione della diffusione della crisi sanitaria ha fatto raggiungere, diciamo, ha raggiunto dei livelli anche sul piano politico che effettivamente non c'è più un blocco così rigido. Ben inteso, questo non vuol dire che sono pronti a fare il corona bond, mi pare che non ci siano spazi in ogni caso per quello, ma in ogni caso ci sono chiaramente delle aperture. Le stesse posizioni olandesi, del governo olandese, prese finora sono state fustigate politicamente anche all'interno di quel paese, e questo è il segno, diciamo, dei tempi. Vorrei aggiungere una cosa alla tua analisi prima della che tu mi interrogassi, che c'è un motivo anche di fondo strategico per cui tutti, la Germania come il fronte del nord, sono interessati a tenere unita il continente, tenere unito il continente, e a preoccuparsi adesso di come sostenere la ripresa economica a crisi sanitaria conclusa, perché ci saranno delle conseguenze sul piano globale dal punto di vista della catena di produzione, della catena del valore e dal punto di vista della dimensione dei mercati, per cui l'economia continentale che produce non soltanto per se stessa, ma molto di più per se stessa di quanto dovesse produrre prima. C'è un problema, diciamo, strategico che punta in quella direzione. Quindi, se posso essere ancora più schietto, visto che ci sarà un problema di rallentamento dell'economia globale e visto che, per esempio, la Germania, non solo l'Italia, anche l'Italia, basa moltissimo della sua crescita economica sulle esportazioni, e noi immaginiamo un rallentamento complessivo, anche delle diffidenze complessive, una Cina che è un rapporto con gli Stati Uniti di un certo tipo, attenzione, perché mantenere vivo il mercato interno, perché l'Europa, l'area euro non è più export per noi, praticamente è un mercato interno, ti permetterà anche di controbilanciare, se ho ben capito il tuo ragionamento, quello che sarà un calo molto prevedibile del commercio mondiale. Esatto, esatto. Questo, diciamo, come sbocco di mercato, certo, ma anche come, diciamo, come catena della produzione, che adesso è globalizzata, probabilmente lo sarà anche meno. E che quello che diceva prima con Tremonti, cioè se tu devi tornare a fare delle filiere del valore più corte, che non vadano dall'Asia a Vietnam per poi tornare qua, ma devi farle più corte per tanti motivi. Vuoi perché è troppo rischioso stare in paesi di un certo tipo, visto quello che è successo anche come trasparenza, vuoi perché il mondo sarà meno intenso lo scambio commerciale, hai bisogno di produttori anche nel continente europeo, poi non oso immaginare cosa capiterà ai cambi valutari, perché se tu inizi a avere dei fornitori in Italia, in Spagna, in Francia, è un conto. Se ti vengono giù quei paesi, resti anche senza la parte della catena produttiva, nella pipeline del valore. Senti, Antonio, invece il piano della von der Leyen sono 25 miliardi che potrebbero mobilitare in 100 per evitare, cioè per dare una mano ai paesi che stanno fronteggiando il rischio di disoccupazione, e quindi si è detto aiuterà anche la nostra spesa per la cassa integrazione. Ma come funzionano questi soldi? Cioè come vengono distribuiti? No, adesso saranno distribuiti sulla base delle necessità. Questo quadro non è ancora molto chiaro. La cosa chiara però è che la Commissione Europea emetterà delle obbligazioni UE. Le obbligazioni UE saranno garantite dagli stati, i quali non devono versare questa garanzia. Vi parteciperanno tutti, anche se si dice nel dispositivo della proposta che non sono obbligati a farlo, ma lo faranno. Questo ci è stato raccontato oggi. Aiuteranno a finanziare i vari sistemi, chiamiamoli così, di casse integrazioni. Per noi la cassa integrazione classica, per la Germania è il modello di lavoro di breve durata e quant'altro. Questi modelli, soprattutto per esempio in Germania, ha permesso di evitare l'aumento della disoccupazione durante la crisi finanziaria e poi la recessione del 2008. E quindi il quanto sarà poi la quota parte di ogni paese dipenderà dalla situazione, dall'incidenza della spesa a sostegno della disoccupazione, a sostegno della copertura contro la disoccupazione, a seconda della situazione dei paesi. Sì, devo dire che con tutti i difetti che questo paese, noi abbiamo uno strumento della cassa integrazione che poi è anche straordinaria, adesso anche in deroga, che è un ottimo strumento, perché è uno strumento molto automatico, tornando al discorso di prima della burocrazia. E poi abbiamo visto che le banche hanno avuto l'accordo con il governo e le parti sociali possono anticipare fino a 1.400 euro di cassa integrazione, perché hanno la garanzia poi dello Stato. Quindi è un meccanismo, quello della cassa integrazione, che in questi casi funziona abbastanza bene per in breve termine. Poi devi arrivare alla fase 2 del rilancio. Due notizie in breve. La prima riguarda New York, visto che facevamo un raffronto con i casi italiani, 2.477 contagiati in più e 760 morti in un paese come l'Italia, e dicevamo che la Spagna con due terzi degli abitanti ha avuto 8.100 contagiati in più e 960 morti in più. Beh, vorrei puntare l'attenzione anche numerica su New York, che ha avuto in questo momento, c'è il dato, 8.700 nuovi casi in 24 ore, 432 deceduti in 24 ore nella città di New York, che per quanto grande, e quindi che porta il numero di decessi a New York a 2.370, e i casi accertati nella sola, cioè nella città di New York, a 92.000, poco meno dell'intera Italia. La buona notizia invece, per chiudere, è che qualcuno ha visto che sono tornati i delfini in laguna. Poco fa le agenzie hanno battuto che l'acqua del Gange è molto più pulita da quando si è bloccata, per esempio anche migliora la qualità dell'acqua del Gange. Peccato non poterci tuffare, perché siamo tutti qua. Grazie ad Antonio Poglio Salimbeni, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi per un'altra puntata di Focus Economia. L'auguro di una buona serata, rigorosamente da passare a casa.